Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Varsila in rada a Trieste, la nave per i motori da EV, portuali in sciopero, carico affidato in parte forse al personale di bordo. Studente friulano muore in un incidente stradale in Umbria, lutto a Civitale per Jonathan Bardus, aveva 25 anni. Costi dell'energia insostenibili per gli albergatori di Lignano, il rischio è di rovinare una delle stagioni migliori di sempre. I rincari delle bollette spaventano anche la montagna, operatori preoccupati in vista della stagione turistica invernale. A gonfie vele il turismo enogastronomico, viaggio nel Collio tra degustatori di vino sempre più preparati ed esigenti. Il comparto della pesca protagonista a Marano tra promozione del prodotto locale e preoccupazione per il futuro del settore. Dopo 9 anni di stop, il ritorno delle nozze Carsica Morupino, ospite d'onore il presidente sloveno Borut Pahor. 7:19 minuti di lunedì 29 agosto, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito uno sguardo alla situazione meteo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile in regione. Queste le temperature registrate alle 6 a Trieste, 23 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Pordenone e Gorizia 20 gradi, a Udine 19 e mezzo, a Tolmezzo 18 gradi, a Forni di Sopra 14, a Tarvisio 13 gradi e mezzo, sul Piancavallo 11 gradi e 5 decimi, a Sappada 10 e mezzo, sul Monte Zoncolan 12 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 11, sulla costa Grado e Lignano 23 gradi, temperatura del mare nelle due località 26 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: prevalenza di tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso e temperature ancora estive. Sulla costa al mattino soffierà Borino, nel pomeriggio brezza. Dal pomeriggio sui monti variabilità con qualche probabile rovescio locale, da non escludere anche sulle zone più orientali. Braccio di ferro su Varsila, è ferma nel Golfo di Trieste la nave incaricata di imbarcare i motori acquistati dalla sudcoreana Daewoo, nave che ha comunicato l'intenzione di utilizzare il personale a bordo e non i portuali, che scioperano in solidarietà con i lavoratori di San Dorligo per le operazioni di attracco e non solo, ma per ora il via libera alla proposta pare molto lontano. Non sembra immediato il carico dei 12 motori acquistati dalla sudcoreana Daewoo sulla UHL Fusion, ferma in rada nel Golfo di Trieste. Mancano 2 autorizzazioni, le dovrebbe concedere l'autorità portuale. La nave ha avanzato la richiesta di autoproduzione. In sostanza, il personale di bordo propone di fare da sé con il carico, sostituendosi ai portuali, almeno per la parte delle operazioni in mare. L'autorità deve verificare i requisiti di nave ed equipaggio prima di dare il via libera, senza considerare che potrebbero esserci problemi di tipo legale, perché con l'autoproduzione si andrebbe a rimpiazzare personale in sciopero, proclamato dai sindacati in solidarietà con i dipendenti di Varsila, l'azienda che vuole trasferire in Finlandia tutta la produzione. L'altro ostacolo è la banchina. La nave vorrebbe svolgere le operazioni nella parte del canale navigabile opposta rispetto a dove avvengono normalmente, non lontano dal luogo in cui si trovano adesso 10 dei 12 motori. Va verificata l'agibilità di quella banchina per un carico così importante. Una volta ottenute le autorizzazioni, la nave deve trovare personale del porto che non aderisca allo sciopero per compiere le operazioni di terra. Insomma, nel giorno della grande manifestazione cittadina sabato prossimo, i motori potrebbero essere nello stesso posto di oggi. Per quel giorno la Triestina Calcio ha proposto agli organi competenti lo slittamento della partita inaugurale della Serie C contro il Pordenone dal pomeriggio alla sera, in modo da non giocare in concomitanza con la protesta. Trieste viene prima della Triestina, recita il comunicato della società. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Una scelta inspiegabile, quella del gruppo finlandese, secondo Sergio Razzetto, per oltre 13 anni presidente e amministratore delegato di Varsila Italia. Quale potrebbe essere ora il futuro dello stabilimento di San Dorligo? Sentiamo l'intervista. Ancora non si capacita della scelta di Varsila, ritenuta non industriale. Il massimo dirigente di lungo corso della divisione italiana, Sergio Razzetto, da 6 anni fuori dall'azienda. A lui abbiamo chiesto quali soluzioni intravede all'orizzonte se il gruppo finlandese non dovesse fare marcia indietro. Questa soluzione non è nel sindacato, non è negli operai, non è nella partecipazione locale, ma è del governo. Questo o quello che verrà. Sicuramente, se noi non vogliamo perdere il know-how che si è raccolto a Trieste, e questo è un altro dei grandi pericoli. Soluzioni private? Soluzioni private le vedo non facili, perché il percorso è comunque un percorso lungo e quindi ha bisogno di sostegno. Appoggia la dura lotta dei lavoratori sia di Varzile sia del porto? Assolutamente sì, non posso non condividerli, anche perché il metodo utilizzato è stato un metodo freddo, sì, in accordo alle leggi che abbiamo purtroppo, però dimostra un'azienda che ha voglia di chiudere senza troppe discussioni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, lutto a Cividale per la morte di Jonathan Vardus, 25 anni, deceduto sabato sera in un incidente in Umbria dove studiava. La sua famiglia gestisce un ristorante di Castelmonte. Il servizio è di Andrea Rossini dalla sede della TGR dell'Umbria. Era una stella, era tanto, era il nostro orgoglio. Alla mamma non resta che accarezzare la gabbia del cardellino raro allevato con amore dal figlio. Jonathan Vardus, 25 anni, laureando in veterinaria, è morto in un incidente stradale accaduto a San Giustino. Membro dell'associazione Avicola Umbra, era a Città di Castello per mettere in mostra i suoi cellini alla fiera di San Bartolomeo. Doveva andare a cena con gli stendisti, ma l'auto su cui viaggiava è stata centrata da un'utilitaria all'incrocio tra via Tifernate e via Fratelli Rosselli. Il giovane passeggero sul sedile di dietro è morto sul colpo. Feriti in modo non grave, la coppia di amici di famiglia e il loro nipotino di 3 anni, così come l'altro conducente. All'origine una mancata precedenza. La segnaletica per terra è quasi inesistente e il cartello era girato per il verso opposto. Un tratto pericoloso. Molto per la grandissima velocità fatta presente al comune ormai da tempo. Chi conosceva Jonathan non sa darsi pace. Sempre generoso, disponibile, simpatico, solare, era il ragazzo che veramente... Si trovava bene qua in Umbria, l'abbiamo accolto tutti quanti come un ragazzo, come un figlio, scusate. Prima di chiudere lo stand hanno atteso l'arrivo della famiglia accorsa da Udine. Jonathan amava tanto la vita e gli animali, trovate la vostra passione e impegnatevi, perché lui era un ragazzo che si impegnava. Ancora cronaca, ieri sera poco prima della mezzanotte a Mortegliano 2 auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 82 in via Ferraria. Ancora non note le cause dell'incidente che ha provocato gravi ferite a 2 delle 4 persone presenti nei veicoli e che ora sono state ricoverate all'ospedale di Udine. Sul posto i vigili del fuoco di Udine e i carabinieri di Latisana. E a San Pietro al Natisone, poco prima delle 2 di questa mattina, è scoppiato un incendio nella tensostruttura che ospita un chiosco della pista di go-kart locale. Non si registrano feriti, ma danni all'attrezzatura da cucina presente nell'allestimento. L'allarme è stato dato da un passante ai vigili del fuoco di Udine che hanno domato le fiamme. Politica, verso il voto del 25 settembre si attende l'esito dei ricorsi presentati dalle liste escluse in regione. Oggi o domani i sorteggi delle posizioni sulle schede di Camera e Senato. È atteso per oggi l'esito dei ricorsi presentati in Cassazione dalle liste elettorali escluse. Subito dopo saranno convocati i rappresentanti di tutti i simboli ammessi e si procederà al sorteggio per definire l'ordine sulle schede. L'estrazione potrebbe tenersi fra questo pomeriggio o al massimo domani. E così si completerà un ulteriore passaggio di questa campagna estiva che porterà alle votazioni per il rinnovo di Camera e Senato, le prime elezioni dopo le riforme costituzionali con un numero ridotto di parlamentari e con l'abbassamento dell'età minima per votare al Senato da 25 a 18 anni. Fra i 21 contrassegni che erano stati presentati alla Corte d'Appello di Trieste, competente per la regione, 5 erano stati esclusi. Hanno fatto ricorso in 3, Destre Unite, Forza Nuova e la lista composta da Partito Animalista, UCDL e 10 volte meglio. Le elezioni si terranno domenica 25 settembre, il Friuli Venezia Giulia è diviso in 3 collegi per la Camera, circoscrizione unica invece per il Senato. Saranno 12 parlamentari regionali, 8 deputati e 4 senatori, dunque 8 in meno di quelli dell'attuale legislatura. Trieste, Ludovico Fontana, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per gli appuntamenti politici a Udine, Gianluigi Paragone interverrà per presentare le liste Italexit del Friuli Venezia Giulia all'Hotel La Dimoretta alle 15.30. Si terranno mercoledì in Duomo a Udine le esequie del giornalista e scrittore Giulio Giustiniani, fiorentino, 70 anni appena compiuti, fu tra i vari incarichi vice direttore del Corriere della Sera e direttore del Gazzettino di Venezia. Ricoprì anche la carica di direttore news e direttore editoriale della Sette. Viveva a Percoto con la moglie Elisabetta Nonino. Nel 2011 pubblicò il suo primo romanzo Il sangue è acqua. Passiamo all'andamento dell'epidemia di coronavirus in regione. Anche gli ultimi dati disponibili relativi a ieri confermano il caso dei nuovi casi, con 357 contagiati contro i 439 di domenica scorsa. L'incidenza è scesa a 346 casi per 100.000 abitanti in una settimana. In calo anche il tasso di positività, ieri poco superiore al 12%, rilevato su 2.944 tra tamponi molecolari e test rapidi. Stabile il numero dei pazienti positivi in terapia intensiva, che ieri erano 5, mentre sono saliti a 161, dunque 6 in più rispetto al giorno precedente, quelli ricoverati negli altri reparti. Ieri sono stati 2 nuovi decessi, di cui uno a Trieste e uno a Pordenone. Una stagione estiva ottima, quella di quest'anno per le località turistiche. Il rischio però è che tutto possa essere vanificato dal costo stratosferico delle bollette. Siamo andati a sentire qual è la situazione degli alberghi di Lignano. Quasi tutti terranno aperto fino a fine settembre, qualcuno addirittura fino a metà ottobre. La stagione a Lignano, del resto, è stata strepitosa e le prenotazioni per gli ultimi giorni d'estate non sono mai andate così bene. Il rischio, che però economicamente non convenga, è enorme. Le maxi bollette di luce e gas non sono ancora arrivate a tutti, ma saranno del 200-300% più care rispetto allo scorso anno, a cui vanno aggiunti gli aumenti dei servizi di lavanderia e delle materie prime. Ci si preoccupa per la prossima estate, dove necessariamente i prezzi delle camere saranno ritoccati verso l'alto. Enrico Guerin, Confcommercio Mandamento di Lignano. Un ritocco dei prezzi mi pare che sia chiaramente scontato. Del quanto è più la domanda, perché io penso che preparare e revisare i prezzi in questo momento non sia possibile, anche perché non sappiamo cosa ci aspetterà nei prossimi mesi e quindi a che cifre andremo con i consumi dell'energia elettrica e del gas principalmente, e quindi di tutti i servizi e dei beni conseguenti. Ma i turisti sono disposti a spendere di più? E quanto? Penso massimo 10-15% in più. D'altra parte sarà da vedere quale sarà il nostro potere d'acquisto, vedremo. Ma onestamente già quello che sto spendendo adesso è un po' più alto di quello che sarei disposto a spendere, però capisco che si tratti di un momento particolare, quindi accetto di pagare un po' di più. Se diventasse strutturalmente così alto il prezzo, credo che mi rivolgerei onestamente verso altre soluzioni. Gli albergatori di Lignano, che dopo 2 anni di incertezza a causa Covid un po' ci hanno fatto l'abitudine, vorrebbero ricominciare a programmare con largo anticipo la prossima estate e investire ancora sulle strutture, ma con questi costi dell'energia rischia di essere davvero impossibile. Pier Francesco Bocus, albergatore. La programmazione è difficile, quasi impossibile, perché anche con i tour operator, adesso alcuni di noi lavorano con quelli, è impossibile praticare e operare già dei prezzi per il prossimo anno. Come facciamo a sapere quanto potremo vendere le nostre camere se non sappiamo quanti saranno i costi? Lignano Sabbiadoro, Andrea Saula e TGR Friuli Venezia Giulia. Le bollette alle stelle preoccupano anche gli operatori turistici della montagna, soprattutto in vista della stagione invernale. I numeri sono tutti positivi per la stagione estiva che sta per terminare a Piancavallo. Ma gli operatori turistici guardano già l'inverno, preoccupati dai rincari energetici che inevitabilmente graveranno sui loro bilanci. Un'estate che ha visto superare le presenze rispetto al record del 2019 nelle strutture alberghiere ed un ritorno dei proprietari delle seconde case nella località avianese. Un turismo stanziale che si basa per il 90% su società sportive che scelgono Piancavallo per la preparazione dei loro giovani atleti. Una presenza dai primi di giugno fino a settembre inoltrato. Enrico Rettore, responsabile del settore giovanile Mestrino Rubano Calcio. La scelta è per una questione sia di servizi che ci offre Piancavallo, sia come strutture alberghiere che di impianti sportivi. Riaperte molte seconde abitazioni, come non si vedeva da anni. Finalmente un po' di vita in Piancavallo, che sembrava un mortorio fino a 2-3 anni fa, invece adesso ha veramente ripreso. Ma il tema più ricorrente tra gli operatori della montagna è come si potrà affrontare una stagione invernale con tariffe energetiche schizzate alle stelle. Ipazio Ciardo, albergatore. Si preoccupa gli aumenti costanti mese dopo mese e i consumi energetici che vanno a mangiare tutto gli introiti che si hanno su una struttura alberghiera. Evitando l'aumento dei prezzi, Sergio Babbo, ristoratore. Bisogna cercare di calmierare più che aumentare, bisogna stare attenti. Un grattacapo soprattutto per i gestori di rifugio. Riccardo Donò. Di andare al pellet, di passare con le stufe a pellet per riscaldamento, però qua noi purtroppo siamo a 1.600, quindi abbiamo difficoltà per l'approvvigionamento di tutto. Quelle invece che non aumenteranno di sicuro saranno le tariffe degli ski pass per il prossimo inverno. La regione l'ho già comunicato ufficialmente, anche se qualche provvedimento per contenere la spesa energetica verrà preso. Jacopo Mestroni, direttore operativo di Promoturismo FVG. L'estate sta andando molto bene per noi e quindi compensiamo con i maggiori ricavi. Per l'inverno siamo molto preoccupati perché oltre ai costi dell'energia, per l'innevamento e per il pompaggio dell'acqua, questa preoccupazione deriva anche dal fatto dell'assenza di risorse idriche. Biancavallo, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo il mare e le spiagge, molti vacanzieri cercano nuove destinazioni, tra queste l'entroterra vitivinicolo, meta di numerose gite enoturistiche. Forse nessun viaggiatore confesserà mai che il fattore enogastronomico sia il primo elemento motivante nella scelta di una destinazione. Del resto le graduatorie, anche psicologiche, sono sempre complesse e i temi culturali e ambientali rappresentano un viatico più consueto e rassicurante. Ma a giudicare dai numeri e dai feedback del flusso enoturistico per il Collio Goriziano, il vino può tranquillamente annoverarsi al meno alla pari rispetto a tutte le altre spinte propulsive. Robert Princic, manager enoturistico. Coloro che vengono a visitare le nostre aziende, le nostre cantine, il nostro territorio sono persone già preparate, persone che comunque si sono formate proprio per motivi di passione nell'ambito di quello che sono i vari corsi di formazione, di avvicinamento al vino. Di anno in anno vediamo una crescita piuttosto importante che potrei stimare circa un 15-20%. Oggi è un turista che conosce bene i vitigni, che conosce bene la zona, che però vuole in qualche modo ricercare qualcosa in più e assaggiare direttamente sul posto quello che effettivamente gli viene raccontato nei ristoranti o durante questi corsi di formazione. L'enologo Patrick Rossi. Negli ultimi anni c'è stato comunque un incremento che si attesta secondo me su un 50% dalla Germania, ma anche in realtà da località più lontane. Ci sono capitati turisti anche dagli Stati Uniti, dal Canada, l'enoturista che è sempre più preparato in ambito enologico. E, ovviamente anche la nostra offerta deve essere adeguata per il turismo colto. Ich komme aus Österreich, Wien. Vengo dall'Austria, da Vienna, con la famiglia. Per noi la vacanza in collina è una questione di sfumature, il verde del paesaggio, la storia austro-ungarica, i profumi, i sapori. L'enoturismo oggi è cambiato perché le persone stanno molto attente a quello che spendono. Non sono più alla ricerca di un vino banale, ma sono alla ricerca di un vino che racconti la storia del territorio. San Floriano del Collio, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Amarano, protagonista del fine settimana, il pesce del territorio tra promozione del prodotto locale e preoccupazioni per il futuro del settore. Mare ed economia, mare e turismo, mare e valorizzazione del pescato e dei luoghi di pesca. Tutto questo è Fish Very Good che ha animato Marano Lagunare. Show cooking per promuovere prodotti locali e nuove specie, gite in barca e a piedi per far conoscere il territorio e le valli da pesca. Da un lato il consumo di prodotto ittico si concentra sempre in poche specie prevalentemente importata a causa di molteplici fattori. Roberto Sesso, vicepresidente FLAG GAG e Friuli Venezia Giulia. Promuovere il prodotto locale, quello stagionale, e che è un prodotto del nostro mare. Ovviamente stiamo parlando di piccola pesca, non delle pesche di grande dimensione. Noi ci proviamo come realtà piccola della regione a supportarli, a dargli una mano. Cerchiamo attraverso l'ittiturismo una forma diversa di pensare di fare la pesca, di dare opportunità di diversificazione al pescatore. Cambiamenti climatici che stanno introducendo nuove specie a danno di altre, aumento dei costi del carburante e dell'energia, sono fattori che stanno mettendo in serio rischio la sopravvivenza del comparto ittico in regione. Achille Genda, cooperativa AP San Vito. Sono venuti a mancare soprattutto molluschi per quanto riguarda i lupini, noi in dialetto li chiamiamo peverasse, o le cappelunghe. E si sono conosciute da un paio d'anni a questa parte delle specie, tra virgolette, chiamiamo aliene, che è tipo il granchio blu, che è una specie che per ora sì, è pescata e anche un valore di mercato, però sì, non si sa con l'andare degli anni che impatto può avere nell'ecosistema lagunare. Chiaramente certi tipi di pesca sono penalizzati e qualcuno ci sta facendo veramente un pensierino di smettere, purtroppo. Marano Lagunare, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo adesso di scuola e di istruzione, giornata d'esordio per la settimana dell'educazione, iniziativa intitolata all'animare la comunità, che proporrà laboratori, incontri e eventi per riscoprire il valore dell'educazione. In calendario fino a sabato a Pavia di Udine, l'iniziativa prevede oggi laboratori educativi per giovani di scuole elementari e medie all'oratorio Don Bosco. Ed è intesa favorire la sperimentazione e lo studio di nuove tecniche e modalità di apprendimento. La scuola estiva del Centro Regionale di Documentazione, Ricerca e Sperimentazione Didattica per la Scuola Friulana, oggi in apertura, in calendario fino a mercoledì. Tra i corsi in scaletta, dedicati a insegnanti e aspiranti docenti, quello sulle tecniche mnemoniche a scuola e il laboratorio linguistico e di scrittura, oltre a conferenze su clima e alimentazione. Appuntamento ad Aplis di Ovaro, all'hotel Aplis, dalle 9. Ed è rivolto agli studenti che hanno concluso il quarto anno della scuola superiore, l'evento inaugurale della seconda sessione di moduli formativi estivi dell'Università di Trieste. L'iniziativa si terrà nell'Aula Magna dell'edificio H3 del campus di Piazzale Europa alle 10. Nell'incontro, intitolato Da Grande, si affronteranno temi che spaziano dalla gestione del fallimento fino all'importanza del talento e alla comunicazione sulle piattaforme digitali in chiave professionale. E a Udine, la seconda edizione della scuola estiva di Leggiamo 018, programma regionale di promozione alla lettura, in cui è proposta una formazione dedicata a docenti, bibliotecari, operatori e amministratori per parlare di libri e lettura, oltre che di strategie di lettura inclusiva. Ne abbiamo parlato con Mara Fabbro, presidente della cooperativa d'Amatrà, uno degli enti che partecipano e organizzano il progetto. È un'intera giornata dedicata ad incontri e riflessioni sulle questioni che più da vicino riguardano la promozione della lettura. I partecipanti sono divisi in linee, la linea verde, la linea arancio, la linea argento, sono come immaginarie linee di metropolitana che nella città di Udine si muoveranno nei luoghi più significativi, da Casa Cavazzini al Museo Etnografico, incontrando gli esperti che abbiamo chiamato qui per ragionare con noi quest'anno. La novità di questa edizione sono i caffè con dei confronti, degli incontri. Sì, abbiamo deciso di abitare i giardini del Torso con degli incontri con i partner che poi durante tutto l'anno rendono vivo e attivo il programma Leggiamo 018. Quindi potremo incontrarci tra di noi insieme ai docenti, ai bibliotecari, agli operatori e a tutti coloro che riflettono, crescono con i giovani lettori, rendendo vivo il lavoro della promozione della lettura. È stata una festa molto partecipata, quella delle nozze Carsi, che è tornata dopo 9 anni a Monrupino, uno degli eventi più sentiti dalla minoranza slovena, che quest'anno ha avuto come ospite speciale il presidente della Slovenia, Borut Pahor. Le nozze carsiche, che dal 1968 tradizionalmente si celebravano quasi immancabilmente ogni 2 anni, sono ritornate quest'anno dopo 9 anni di attesa. Vuoi perché c'è carenza di coppie disposte a promettersi eterna fedeltà, vuoi perché la pandemia ci ha messo del suo, è dal 2013 che nessuna sposa viene portata in festante processione alla Rocca di Monrupino. La festa di quest'anno è stata inaugurata mercoledì ed è culminata con lo sposalizio vero e proprio, accompagnato dal tradizionale e numerosissimo corteo nuziale, al quale possono prendere parte solo i partecipanti in ineccepibili abiti tradizionali, preparati e sistemati con mesi di anticipo, filologicamente perfetti in ogni dettaglio. La cerimonia, che si basa sulle testimonianze delle usanze matrimoniali popolari del Carso della seconda metà del XIX secolo, ha visto tra i partecipanti ben 1.060 persone in costumi tradizionali, un vero record. Il matrimonio si è svolto come da tradizione al santuario della Rocca di Monrupino. Di seguito la processione fino in paese, dove la sposa viene consegnata alla famiglia dello sposo e la giornata culmina in un'ultima grande festa. A chiudere una giornata memorabile, il primo ballo dei neosposi e la speranza che ci si possa ritrovare numerosi e festanti di nuovo tra 2 anni. Betty Tomsic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Primo tour per Sissi al Secolo Silvia Cesana, artista 23enne già nota per la partecipazione alla campagna Equal della piattaforma digitale Spotify a promozione della parità di genere, come anche per la partecipazione a Sanremo Giovani. Tra le ispirazioni della giovane comasca, di cui in sottofondo state ascoltando la canzone intitolata Scendi, si annoverano la musica di Amy Winehouse, oltre a quella di David Bowie e di Mark Bolan. Ad aprire la serata musicale sarà Tish, nome d'arte di Tiana Boric, 21enne serba, che fa musica da quando aveva 4 anni, suonando pianoforte, violino, viola, chitarra e ukulele. Appuntamento a Udine, al Castello, porte aperte al pubblico dalle 20 e inizio musica alle 21. Un'isola, occhi solo per te. E prosegue il festival organizzato da Anatema d'Esopo, il Tiere Teatro Festival, tra danza e prosa rivive questa sera il mito del Minotauro con la Lyric Dance Company Minotauro, un'altra verità, coreografato da Alberto Canestro, in programma alle 21 al Forte di Esopo. Alle 18 in prima nazionale Pasifa e la nascita del Minotauro nelle gallerie sotterranee del Forte di Esopo, evento con 3 attori, Gisella Massè, Igor Inasarco e Luca Ferri, impegnati a rileggere il mito della madre del Minotauro in 3 lingue diverse, portoghese, ucraino e italiano. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Impegno amichevole ieri per il Pordenone. Ad Azzano Decimo i neroverdi hanno battuto per 2-1 i veneti dell'Arzignano. Per i ramarri hanno segnato Burrai e Deli nel primo tempo, per Arzignano gol di Nkama allo scadere dei 90 minuti. In Coppa Italia di Serie D il Cernis-Mozzane ha battuto in casa per 4-0 il Portogruaro. Per il ciclismo, bronzo vinto da Luca Braidot ai campionati del mondo di mountain bike in Francia davanti all'atleta di Mossa, lo svizzero Nino Schurter al 10° all'oro mondiale. Sul secondo gradino del podio lo spagnolo David Valero Serrano. 90 concorrenti ieri al trail delle Dolomiti Friulane a vincere sul percorso di 21 km e 1700 metri di dislivello. Michele Sulli del team Aldo Moro, che ha bissato il successo della scorsa edizione. Dietro di lui Dylan De Michiel del gruppo sportivo Lorenzago e il fornese Dennis Noicom dello Stella Alpina. Tra le donne, primo posto per Martina Ottogalli del Dolce Nord-Est, seconda Lorella Baron del gruppo sportivo Edelweiss e terza Deborah Simonetti delle Aquile Friulane. Per il basket, oggi debutto in amichevole per la Udine a Tarvisio. Nell'ultimo giorno di ritiro i bianconeri affronteranno i veneti del San Vedemiano alle 19. La vela, Enrico Koslovic e Aurora Ambroz del Circolo della Vela di Muggia si laureano campioni europei Team Race Optimist, specialità della classe dedicata alle prove a squadre. Sul lago di Ledro in Trentino, la nazionale italiana composta dagli atleti muggesani e dai gardesani Leonardo Scialpi ed Emilia Salvatore si è imposta su 16 nazioni in un lungo campionato dove il podio è stato condiviso con Polonia e campioni uscenti della Spagna. L'alpinista altoatesina Tamara Lunger, seconda donna italiana a raggiungere nel 2014 la cima del K2, presenterà il suo libro intitolato Il richiamo del K2, la dura legge della montagna, a Pordenone, ai giardini Trombino di Via Brusafiera alle 19. A seguire Lunger presenzierà la proiezione di Italia K2, un film che ha fatto la storia del cinema di montagna e che oggi torna sul grande schermo grazie a un restauro in cui è restituita tutta l'emozione dell'epica ascesa degli italiani sulla seconda vetta del mondo nel 1954 a Pordenone, all'Arena all'aperto di Cinema Zero in Largo San Giorgio alle 21. 7.47, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. è dedicata alla crisi della Varzila, all'apertura del piccolo di Trieste, che nell'interno include un'intervista al segretario generale Wilm, Rocco Palombella, che si dichiara favorevole alla nazionalizzazione della sede produttiva muggesana, considerata strategica per l'economia che ruota intorno all'Europa. Fotonotizia per il ricongiungimento della rete dell'acquedotto sotterraneo teresiano da parte della Società Adriatica di Speleologia dopo 3 anni di lavoro. Capocronaca interno, gli oltre 10.000 ricoveri registrati all'Istituto Materno Infantile Burlo Garofalo lo scorso anno causa Covid. E poi le infrastrutture, con l'aggiornamento del listino prezzi ufficiale delle opere edili che è stato approvato dalla Giunta Comunale, resosi necessario per non far lavorare in perdita le aziende impegnate in appalti. Infine un reportage con le nozze carsiche a Monrupino, a cui sono intervenuti oltre 1.000 figuranti in costume. Smart working, ecco cosa cambia da settembre. Il Messaggero Veneto di Udine apre sul lavoro. In assenza di accordi aziendali, i lavoratori dovranno tornare in presenza. Sotto un ritratto di Jonathan Bardus, studente cividalese di 25 anni, muore in un incidente in Umbria. Di spalla da stanotte a Udine la disinfestazione contro il West Nile, tema che apre la cronaca cittadina, bonifiche anche a Pasian di Prato. Poi in montagna si sente male durante l'ascensione sulla Mariana, ne abbiamo riferito ieri. Ancora un ritratto di Ciro Baldissera, il 67enne gemonese morto in un incidente ad Artegna, era un attivo volontario della Proloco. In taglio alto l'addio a Giulio Giustiniani, scrittore, giornalista, marito di Elisabetta Nonino. In basso Alice Mizzau, campionessa friulana di nuoto Io da Migella, alle nozze di Federica Pellegrini. Sul Gazzettino case di riposo, l'incubo degli aumenti delle rette e l'apertura sotto un altro titolo a tutta pagina per la morte in Umbria del 25enne cividalese. Nella fotonotizia Udine, 200.000 furbetti del biglietto sui bus, in aumento le multe, spesso poi non pagate. In taglio basso il calcio, i bianconeri si preparano per Fiorentina e Roma, e nel basket Old Wild West pronta per il primo test. L'apertura dell'edizione di Gorizia del Piccolo propone il capocronaca interno con i dati della questura aggiornati a dicembre 2021 che attestano una lieve crescita dei reati con un aumento medio dell'1,3% e punte del 10,8% degli illeciti contro il patrimonio e dell'8% per i furti. La crescita più significativa dei crimini riguarda però le truffe via web, aumentate del 17% rispetto all'anno precedente. Fotonotizia per il Festival Mondiale del Folklore, la cui sfilata di ieri è stata annullata a causa pioggia, vincitori il gruppo dei Giorgiani. Capocronaca di Monfalcone, la riapertura degli asili nido comunali di giovedì a fronte di 24 esuberi. Spazio poi al calo della retta della casa di riposo di via Ceriani a fronte dell'aumento del contributo regionale e del congelamento tariffe del comune. Lo sconto va da 1,50 € a 2,50 € al giorno in base alle fasce ISEE. Da Gradisca la polemica per le erbacce cresciute lungo la passerella verso Poggio Terza Armata. Sul Gazzettino Dorso di Pordenone il titolo principale è il caro bolletta che non risparmia le case di riposo. Sopra torna la questione multe per chi viaggia senza biglietto del bus. L'esercito dei furbetti calcolati in quasi 80.000 in provincia di Pordenone, 200.000 a Udine e 250.000 a Trieste. Nella fotonotizia un nuovo incidente che vede protagonista un militare della base di Aviano a pochi giorni dall'investimento mortale di Porcia in cui ha perso la vita un 15enne. Una manovra azzardata da parte del guidatore statunitense fa rovinare a terra un 16enne in bicicletta. Gli è stata sospesa la patente, è risultato negativo all'alcol test, ferito ma non in pericolo di vita il ragazzino. Anche sul Messaggero Veneto di Pordenone c'è la fotonotizia dell'incidente di Aviano. Di spalla un titolo per la richiesta di spostare alla sera il derby di Serie C Triestina-Pordenone per la concomitanza con la manifestazione per Varzila. Sotto arrivano i cassonetti trasportabili per la raccolta del verde, argomento che apre la cronaca cittadina di Pordenone, saranno posizionati nei quartieri quando serve, poi rimossi. E ancora nuovi negozi e chiusure, così sta cambiando il volto del centro. Ottava edizione per il corso di formazione sul recupero dei muri in pietra secco costruiti senza legante. L'iniziativa, oggi in apertura, è in calendario fino al 9 settembre ad Appia Inferiore di Artegna, è intesa a riproporre un mestiere del passato per creare nuove opportunità di lavoro, tutelare il paesaggio e dimostrare che una gestione sostenibile del territorio è possibile. Il corso, aperto a tutti, non prevede requisiti di accesso, necessario un abbigliamento idoneo, scarpe da lavoro, guanti di cuoio, occhiali protettivi. Per informazioni telefonare al 338-718-7227 oppure all'indirizzo di posta elettronica info@ecomuseodelleacque.it. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con Voeo Fevelin D con le attività promosse dall'associazione Alpi Allergie e Pneumopatie Infantili. Alle 11.20 la radio che pedala con un itinerario ad anello tra Muggia e Isola e alle 11.55 l'appuntamento con Radio Fotografie. I programmi regionali torneranno poi alle 14. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Federico Comar e Andrea Fontanotti. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.